un festival del genere serve anche, nasce anche dalla necessità di fondere meglio il Nord-Est, di dare seguito nei fatti a questa grande realtà metropolitana? Sì, il Veneto e il Nord-Est più in generale non hanno una capitale, ma è una città metropolitana diffusa che ha dei confini poi difficilmente definibili. Per essere tale però deve essere connessa, e la connessione è fatta da cose materiali tipo le strade e soprattutto secondo me in futuro le ferrovie, è cosa fondamentale, ma è fatta anche degli incontri, della rete che si crea con incontri tipo il festival, in cui persone di varie città si incontrano, discutono e evidentemente si confrontano poi con il mondo, perché è importante anche questo. In questo modo un po' alle volte si sta tessendo questo benedetto Nord-Est, che sennò è una realtà di cui molto si discute, ma poi effettivamente non, proprio perché, ma è un punto di debolezza che può diventare un punto di forza non avendo una città che lo rappresenti in modo forte, come ripeto è Milano nei confronti della Lombardia, essendo policentrico poi con realtà ulteriormente policentrica all'interno delle singole province. Però pian piano un rapporto fra territori e città importanti e significative che fra loro collaborino a nome di un territorio più vasto può dare un risultato molto bello, secondo me.